Marco Vicinanza, che ne pensa? Sì, voi mi volete veramente... Lui ha ben diversificato il portafoglio perché se le ha comprate tutte e tre. Sì, d'accordo. Quindi, quindi non si comprano solamente le azioni della squadra del cuore. Ecco, perché io che sono del toro già non potrei prenderle. No, perché mi pare che non è quotato, no, tra l'altro. Non dirlo così con quella faccia come per dire che... Sai che io sono juventina, figuriamoci. Anche con una gobba mi tocca lavorare. Mamma mia, io che sono un cuore granata. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole... Per farsi un tavolo, una cucina, una camera da letto come si deve, ci vuole il legno, ma non basta, cara mia Nicoletta, ci vogliono anche un bel po' di soldini oggi. È vero, perché arredare casa, Deborah, è una questione di cuore, perché nella nostra casa dobbiamo soprattutto starci bene, però non possiamo dimenticarci che è anche una questione di denari, come dici tu. Però su questo fronte, per fortuna, ci sono un po' di aiuti, di agevolazioni. Dici bene, agevolazioni di cui abbiamo parlato in passato e di cui possiamo per fortuna continuare a parlare perché vengono confermate. Il governo la settimana scorsa ha approvato il piano casa e siccome la casa è il grande amore degli italiani, oggi torniamo sul tema cuore denari. Ci concentriamo su un aspetto, torniamo a spiegarvi come funziona il bonus mobili che è stato confermato. Per dirla in una frase, ricordiamo che chi sta facendo lavori di ristrutturazione nella propria abitazione e contestualmente vuole rinnovare l'arredamento può ottenere uno sconto fiscale di ben il 50%. Nei giorni scorsi l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti e ha fissato anche qualche paletto. Oggi noi rispondiamo su questo tema a tutte le vostre domande all'800 24 00 24. Per capirne di più ci aiuta Giorgio Spaziani Testa, segretario generale di Confedilizia, che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci a lei. Allora, sappiamo che sono stati milioni di italiani che hanno approfittato fino ad ora di questi incentivi fiscali per la casa. Si incontrano un'esigenza del mercato e un'esigenza delle famiglie. Vale lo stesso anche per i mobili, Spaziani Testa. Voi che stima fate per i prossimi mesi? Ma noi abbiamo l'impressione, attraverso insomma il contatto con le nostre sedi territoriali, che la detrazione, così come nel passato quando era stata introdotta una detrazione analoga, abbia... è successo, ma che ne possa avere di più proprio nei prossimi mesi e addirittura diciamo anni se venisse prorogata, per via proprio dei chiarimenti che ci sono stati ultimamente sia legislativi che di interpretazione, perché non tutti avevano tutto chiaro e probabilmente non ce l'hanno ancora, e quindi aumentando la chiarezza aumenta anche l'appetibilità. Infatti, della misura. A proposito di chiarezza, già Renzo scrive: per il recupero dei soli mobili anche senza ristrutturazione no. Chiariamo subito questo dubbio, Spaziani Testa. No, infatti la detrazione è collegata necessariamente ad interventi di ristrutturazione, cioè il mobile che si acquista o il grande elettrodomestico che si acquista deve essere destinato ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Ristrutturazione intesa in senso diciamo lato, cioè tutti gli interventi tradizionalmente dal 97 oggetto di detrazione. Allora, chiamateci, scriveteci, il nostro numero verde a disposizione 800 24 00 24 e proviamo anche un po' a sognare. Se doveste scegliere quale mobile di casa vorreste rinnovare, magari per avere una casa più comoda, bella, togliervi anche uno sfizio, che ne so, la cucina, perché siete molto appassionati di cucine, finalmente potreste realizzare dei piatti particolari, oppure un bell'armadio, una libreria più grande perché i libri non stanno più, in casa vostra, siete dei grandi lettori. 800 24 00 24. Vediamo anche un po' qual è il mobile, l'arredamento più gettonato. Tu che faresti? Io adesso farei una cucina di quelle, sai, fantastiche con il blocco centrale. Sì. E una, ti capisco. Mi piace. perché la cucina, a me piace cucinare. Hai presente quelle degli attori americani, sai quelle ville sugli Hamptons, no? Sul mare? Sì. Quelle cucine lì, dove stanno in 50.000 persone. Tutti intorno, sì. La libreria, sì. Perché non la nostra è ormai una casa fatta a mensole, mi piacerebbe proprio una cosa a muro. E beh, poi sai, vado avanti, una sala da bagno. Poi quando si comincia non si finisce più. Meglio stare i primi danni. Io, come tu sai, ho ristrutturato 2 anni fa, dovrei però rifare il letto, quello che dico io, con tutto un cassettone sotto, tutta una cosa un po' particolare. Allora, intanto ci sono già i nostri ascoltatori. Certo, Maurizio da Roma e Gianluca sempre da Roma. Andiamo a Maurizio immediatamente. Buongiorno Maurizio. Pronto, buongiorno a voi. Io volevo un'informazione, devo rifare tutti i mobili di casa, però la ristrutturazione non è una vera, cioè voglio dire, devo ritinteggiare tutta casa, non devo spostare pareti, buttare giù muri. In questo caso la cifra sarà sui 2.500-3.000 euro di tinteggiatura, tutto quanto, qualche traccia. Vale la detrazione del 50% per i mobili, che li devo fare tutti? Grazie Maurizio, spaziani testa, mi pare che questo sia un lavoro che purtroppo non dà l'opportunità di poi chiedere l'incentivo fiscale per i mobili. Questa è manutenzione ordinarissima. Purtroppo no, perché il presupposto è che si intervenga attraverso, insomma, quegli interventi che sono previsti per le singole unità abitative, a partire dalla manutenzione straordinaria, andando alla ristrutturazione edilizia e arrivando al restauro e risanamento conservativo. Quindi manutenzione straordinaria minimo, che sono interventi di una certa rilevanza e quindi non comprendono la semplice ritinteggiatura. Che cosa è? No, vorrei chiedere, almeno bisogna abbattere una parete. Che cosa è che bisogna fare, esatto, proprio di minimo per poter accedere a queste agevolazioni? Ma gli esempi possono essere tanti, e ricordiamo sempre che c'è una casistica indicata nel tempo dall'Agenzia delle Entrate, ma che non è una cosa così esaustiva, ma che bisogna poi eventualmente integrare con altri interventi che caso per caso si presentassero. Comunque, a titolo di esempio, si può allargare una porta, dico io. Scusi? Allargare una porta, magari? Sì, può essere questo. Perché ti è venuto in mente di allargare una porta? No, perché magari è una cosa non particolarmente devastante per tutta l'abitazione, e quindi fa un, che ne so, invece che la porta fai un arco, per dire. Non lo so, no? Spaziani testa. Sì, e quindi sì, magari sì, l'ascoltatore può contemporaneamente prendersi questi incentivi per i mobili, se no li perde, è un peccato. Sì, però in effetti la sola tinteggiatura no. Comunque poi ci sono, ecco, tanti interventi di altro tipo, sostituzione di infissi, per esempio, che è un intervento anche abbastanza comune, di infissi esterni, anche se con qualche limite lì che l'agenzia ha previsto, con modifica di materiale o tipologia di infisso. Io quella l'ho fatta, ad esempio. Anch'io. E anche lì, perché c'è un incentivo fiscale particolarmente rilevante, no? Spaziani testa, per quello che riguarda questi lavori, che poi permettono anche il risparmio energetico dell'abitazione. Sì, infatti l'incentivo è quello del 65%, infatti, ecco, proprio recentemente, a proposito di risparmio energetico, l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che questa agevolazione del bonus mobili non è collegata formalmente agli interventi di risparmio energetico, ma se l'intervento di risparmio energetico costituisce in sé, di per sé, un intervento di ristrutturazione edilizia o simili, certo, questo consente il collegamento, ed è importante dirlo, cioè formalmente no, ma di fatto sì. Benissimo, allora 800 24 00 24, il numero verde per i nostri ascoltatori, per continuare a martellare di domande il nostro avvocato Giorgio Spaziani Testa questa mattina, e risolvere, speriamo, tutti i vostri dubbi sul funzionamento del bonus mobili. Dottor Cox? Ed eccoti qua! Come dici? Mi stavo chiedendo se ci fosse qualcosa in grado di trasformare il mio mal di testa in una potentissima emicrania, e eccoti qua. E noi siamo qui a partire dalle 11.45, 11.50, insomma nella seconda parte della trasmissione parleremo di mal di testa. Secondo una ricerca americana c'è un giorno e un'ora X in cui più spesso scoppia il mal di testa, sarebbe il lunedì alle 10, se proprio ieri vi è venuto un mal di testa, o se siete persone che solitamente soffrono di emicrania, ce ne sono davvero tanti tipi di mal di testa, chiamateci, perché oggi vorremmo mettere un po' sul banco degli imputati il mal di testa, capire che tipo di mal di testa abbiamo, per cercare di trovare delle soluzioni. 800 24 00 24, noi aspettiamo naturalmente le vostre telefonate. Avvocato Spaziani Testa, direi di tornare alle nostre, al nostro bonus mobili. Ricordiamo sempre, deve essere legato alla ristrutturazione della casa. Andiamo allo schema di base di questo incentivo fiscale. Ricordiamo le date, entro quanto posso comprare i mobili nuovi e terminare i lavori di ristrutturazione per avere il risparmio del 50% sull'acquisto del nuovo arredamento. Sì, la data finale è la stessa, che è quella della fine di quest'anno, cioè il 31 dicembre 2014. La data iniziale, anche perché ci rivolgiamo a qualcuno magari che ha già fatto qualcuna di queste operazioni, la data iniziale è il 6 giugno 2013 per l'acquisto dei mobili, rileva il momento della spesa. Mentre per quanto riguarda il lavoro collegato, cioè quello di ristrutturazione, la data iniziale è il 26 giugno 2012, quindi il lavoro al quale si collega il bonus mobili ha una data di partenza 26 giugno 2012 e data finale 31 dicembre 2014. Mm-hmm. Questo è importante precisarlo, perché qui si tratta di una sorta di periodo unico al di là delle annualità, che è un concetto che di solito abbiamo in testa per quanto riguarda le detrazioni. Quindi dobbiamo considerarlo come un periodo unico. Certo. Io devo aver fatto i lavori a partire da quella data e sostenuto le spese per l'acquisto di mobili a partire dall'altra data, cioè 26 giugno 2013 fino alla fine di quest'anno. Quindi non posso aver speso 10.000 euro l'anno scorso e altri 10.000 euro quest'anno e ottenere due incentivi sostanzialmente, Spaziani Testa, per questo, no, che ci ha fatto questa precisazione. L'acquisto è unico. Esattamente, esattamente. Allora, sì, certo, prego. Dica. No, dicevo un'altra precisazione importante, perché questo, ecco, diciamo, è una cosa che ci viene chiesta anche noi come Confedilizia, è quella che è venuta dal provvedimento che citavate voi, il piano casa, che ha legato le due agevolazioni dal punto di vista della spesa sostenuta, eliminando una regola che c'era, che era quella che la spesa per il bonus mobili, la spesa appunto per l'acquisto dei mobili, dovesse essere almeno uguale o non superiore. Ora possono essere calcolate, considerate indipendentemente, quindi non c'è più questo limite. Benissimo. Vorrei leggere alcuni messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666. Ci scrive Simonetta: se il bonus è valido solo acquistando da negozio o anche da falegname per cucina su misura. Spaziani Testa, mi pare che sia equivalente. Non ci sono limiti da questo punto di vista. L'importante è che si tratti di un fornitore dal quale si acquista un mobile o un elettrodomestico nuovo, questo è importante dirlo, e che ci siano poi tutti gli strumenti per verificare l'acquisto e la provenienza. Esatto, quindi pagamento con bonifico e quindi con uno strumento tracciabile. O in alternativa anche con carte di credito, esatto, o cosiddette di debito, cioè i bancomat. Tra l'altro, la domanda di Simonetta ci dà l'opportunità anche di chiarire un altro aspetto che ha generato molti equivoci fra i nostri ascoltatori, contribuenti che stanno facendo questi lavori di ristrutturazione e magari comprando i mobili nuovi. C'è chi pensa che questo sconto del 50% sia praticato alla cassa dal negozio dal quale appunto si va ad acquistare la nuova cucina, il nuovo salotto. Avvocato Spaziani Testa, ricordiamo che questo è un incentivo fiscale, per cui ci sono le detrazioni in dichiarazione dei redditi. Certo, purtroppo queste persone credo che siano un po' ingannate, tra virgolette, dalle grandi campagne pubblicitarie anche che vediamo. Esatto. Necessariamente mischiano, ma bisogna mettersi nei loro panni, forse è comprensibile, mischiano eventuali sconti propri con lo sconto, chiamiamolo così, fiscale, e quindi c'è il rischio che qualcuno, insomma, interpreti questa cosa in modo sbagliato. Bisogna fare tutte le procedure fiscali, è una detrazione fiscale, bisogna portarsi in detrazione la spesa attraverso la dichiarazione dei redditi, necessariamente. Allora, successivamente all'acquisto, esattamente, l'anno successivo, fare pagando tutto quello che c'è da pagare. Andiamo a Firenze, perché nella provincia di Firenze ci aspetta Francesco, poi ti porto a Mantova. Ah, bene, perché c'è Alessandro. Gran bella città. Tra l'altro, da Milano è sempre un po' difficile da raggiungere, però vale la pena. Vale la pena perché è meravigliosa. Sì. Allora, Francesco, buongiorno a lei e benvenuto. Buongiorno a tutti. Dalla provincia di Firenze, dove intanto? Scandicci. Ah, eccoci qua. Ci dica. Allora, la domanda è questa: dovrei fare un pergolato esterno solidale alla facciata della una villetta che dovrebbe coprire una piccola zona dove io mangio di giorno. Bello il pergolato. Sopra, Ci mette l'uva fragola? No, sopra ci metterei una tenda a trazione, adesso non dico la marca. Un po' meno romantico. No, peccato. Il gelsomino, metta un arrampicante. Io avevo pensato al gelsomino, infatti. Tutto vedi, profumato. Tu l'uva fragola. Sì, perché, allora. Vabbè, comunque Francesco intanto farà quello che vuole. Poi vediamo, Anche il gesso mio sarebbe molto bello. E la domanda è: si può portare in detrazione questo genere di spesa? Che non è legata, ecco, poi magari chissà se la tenda che però che è installa... una continuazione praticamente, avvocato, certo. Praticamente è una continuazione sì. Della casa. Per me sì, avvocato Spaziani Testa. Ma bisognerebbe capirne di più, si tratta di un elemento... un pergolato esterno, l'ha definito. Sì, sì, esatto. Ci pensiamo un attimo, guardi avvocato, la lasciamo dopo. Sì. Io credo che questo però, stiamo parlando di bonus mobili. No, lui ha fatto una domanda generica sulle... Preciso, stiamo parlando di bonus mobili, qui si sta parlando di un eventuale intervento che credo possa essere inserito fra quelli... che come minimo hanno la detrazione del 36% e quindi su singole unità immobiliari sono ammesse. Certo. Però Francesco, si fa il pergolato, mette la tenda, l'uva fragola, il gelsomino, poi sotto cosa ci metterà? Stanno mica in piedi, metterà un tavolo e delle sedie, no avvocato? Però guarda, questo poi si vedrà dopo. Ricordiamo che per quegli interventi però la detrazione attualmente è del 50%. Esatto. Allora Francesco, un attimo magari ci documentiamo bene sul pergolato, la, come dire, prosecuzione naturale di questa abitazione che sarà sicuramente meravigliosa. Andiamo ad Alessandro da Mantova, che peraltro fa una domanda che ci fanno anche molti ascoltatori al 349-238-6666. Alessandro, eccoci a lei. Sì, buongiorno, chiamo da Mantova. La mia domanda è questa: noi lavoriamo nell'ambito del restauro dell'antiquariato, sia come vendita che come restauro per conto terzi. Uh-huh. Alcuni clienti ci fanno la richiesta se possono detrarre lavori di restauro sia sulle porte antiche che su mobili che hanno loro di loro proprietà, naturalmente. Troviamo un po' in difficoltà nel rispondere, perché la direttiva non l'abbiamo ancora capita bene e non è perfettamente chiara proprio su questa cosa. Credo che sia tutto sul nuovo, Alessandro. Comunque andiamo all'avvocato Spaziani Testa. La ristrutturazione del mobile antico non rientra, non mi pare. Direi proprio di no, perché appunto si deve trattare di mobili nuovi, acquisto di mobili nuovi, e in più qui c'è da considerare che negli esempi fatti dall'Agenzia delle Entrate sull'acquisto di mobili nuovi sono state escluse anche le porte, venendo proprio all'esempio che era stato fatto, ma comunque vale anzitutto la distinzione fra acquisto di mobile nuovo e il restauro, che non è, certo, non è prevista proprio dalla legge. Avvocato, ci sono molti ascoltatori che stanno chiedendo se per la propria attività professionale, rifacendo l'arredamento, possono utilizzare il bonus, beneficiare del bonus mobili, magari per rifare appunto lo studio di un professionista, uno studio medico, un commercialista, un notaio. Il commercialista peraltro lo saprà se può detrarre o meno. È possibile? Non è possibile, perché il presupposto è lo stesso delle detrazioni per le ristrutturazioni, che è quello di interventi su unità immobiliari residenziali, quindi l'intervento su uffici, studi, eccetera, non essendo ammesso come presupposto, non è di conseguenza ammesso come poi intervento bonus mobile. Infatti ne avevamo parlato anche nell'altra trasmissione, ti ricordi Nicoletta? Eravamo rimaste un po' così perplesse, perché però sarebbe anche carino, insomma, che queste persone potessero essere aiutate in qualche maniera a rivisitare l'arredamento del proprio studio, se serve chiaramente per finalità professionali. Che si fa? No, qualche sms forse riusciamo ancora a leggerlo. Ci sono tanti messaggi in cui i nostri ascoltatori ci raccontano che cosa sarebbero disposti a ristrutturare per avere queste agevolazioni. Si pensa anche ad allargare la cantina. Tu hai detto, vedi, è colpa tua, hai detto allarghiamo la porta, allora uno dice dove mi allargo? In cantina funzionerebbe? Avvocato, La cantina per mettere le nostre bottiglie forse è un po' complicato? Direi di no, perché si deve trattare sempre dell'appartamento e quindi non di questo tipo. Ricordiamo poi che a proposito di interventi che vengono citati come più di interventi di acquisti, che l'agenzia ha fatto anche un po' di casistica. Venivano citati prima scherzosamente, ma ma giustamente vanno fatti anche degli esempi di cosa che ognuno vorrebbe fare. Qui, ecco, per evitare problemi di scarsa chiarezza, le entrate hanno fatto qualche esempio, hanno parlato di letti, di armadi, di librerie che venivano citate prima, e quindi insomma gli acquisti possono essere di vario tipo, l'importante con esclusione però di complementi di arredo che necessariamente sono acquisti di minore entità. Vorrei leggere il messaggio di Marisa, perché anche lei vuole rifare la cucina, che è uno delle, delle cavalli di battaglia di tutti, ho visto anche di ascoltatori e di ascoltatrici. Se ristrutturo la cucina, opere murarie e idraulica, posso godere delle detrazioni per i mobili e per gli elettrodomestici? Ci chiede Marisa. Questo sì, promossa, no? Sì, sì. Promossa, perché è valido il presupposto ed è valido poi quindi l'intervento e poi l'acquisto successivo, che può comprendere anche frigoriferi, congelatori. Esatto, pensa che soddisfazione rifarsi questa cucina, no? Senti, guarda, un ascoltatore non si firma, ma parla di una cosa che anche a me mette sempre in difficoltà. Quando fai la causale, non sai mai che cosa devi scrivere. Se lui paga i mobili col bonifico, che causale deve inserire? Sentiamo i mercati. Eccolo là, rispondiamo dopo i mercati anzi chiedo a Spaziani Testa di prepararsi anche sul tema pagamento a rate, perché non tutti possono rifare l'arredamento e subito tirar fuori tutto il denaro necessario a sostenere questa spesa. Se si paga a rate, lo stesso si può utilizzare l'incentivo fiscale. Cuore e denari. Mobili, compagni stabili, con gambe solide, con forme utili, eppure immobili. Testimoni degli eventi storici, che terremoti sono riusciti a scuotere, che hanno visto la pianura, il mare, che hanno avuto tempo per pensare. Da un punto di vista sempre uguale, loro c'erano ad ogni Natale normale. Mobili, o meglio, bonus mobili, è il tema di Cuore e Denari, 800 24 00 24. In linea con noi abbiamo il piacere di avere l'avvocato Giorgio Spaziani Testa. E intanto che parliamo di mobili, vogliamo insieme a Deborah farvi fare un esercizio di memoria prospettica. È una forma di memoria delle intenzioni, perché riguarda i fatti non passati ma quelli futuri, e vi diciamo: ricordatevi di ricordarvi che dopo le 11.45 11.50 parleremo anche di mal di testa. E Deborah, con tutti questi conti che bisogna fare, c'è da tenere ben salda la testa. Chissà se al nostro ospite di stamattina, l'avvocato Spaziani Testa, lo abbiamo fatto venire, visto che l'abbiamo letteralmente martellato di domande da parte degli ascoltatori, sarà sicuramente abituato. E allora avevamo tenuto in sospeso due questioni poste da due ascoltatori, anzi ce ne sono tante in sospeso. Comunque cominciamo con la causale che va inserita, avvocato, nel pagamento con bonifico appunto della spesa effettuata per l'arredamento nuovo. Ci sono dei termini di legge precisi che vanno indicati? Perché le devo dire, lo stavo raccontando prima a Nicoletta, che quando ho ristrutturato io e facevo i miei bonifici, ogni volta mi tremavano un po' le mani, onestamente, nella paura appunto di fare degli errori e perdere eventualmente l'incentivo. Beh, bisogna dire che qui in molti casi si è agevolati anche dalle banche, che ormai hanno un sistema collaudato, soprattutto per i pagamenti online. Cioè, nella dicitura bonifico per ristrutturazione viene fuori automaticamente appunto la causale. Esattamente, e l'Agenzia delle Entrate anche qui ha chiarito che anche per il bonus mobili bisogna fare riferimento al lavoro per il quale, diciamo, il lavoro madre, che sarebbe quello degli interventi di ristrutturazione. Si può aggiungere il riferimento all'acquisto di mobili e all'articolo 16 del testo unico dell'imposta sui redditi, ma questo probabilmente c'è già nella documentazione della banca. Certo. Quindi precisazione di acquisto di mobili e utilizzo di quel riferimento lì. In più c'è da aggiungere il codice fiscale della persona, chi beneficia della detrazione, il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto, insomma, del venditore, certo, fuori del quale il bonifico viene effettuato per la singola spesa. Se l'arredamento nuovo si paga a rate, avvocato Spaziani Testa, come facciamo ad ottenere l'agevolazione fiscale? Io ritengo che in questo caso, come qualsiasi altro pagamento, il pagamento a rate possa essere ammesso sempre che il pagamento venga effettuato con i criteri chiesti dall'Agenzia delle Entrate, cioè bonifico bancario, postale, carta di credito o carta di debito. Dico questo perché c'è stata una domanda corrisposta che ha pubblicato l'Agenzia delle Entrate, che potrebbe escludere questo caso se non ci fossero queste condizioni come che ho appena detto, cioè l'Agenzia delle Entrate ha escluso il pagamento attraverso il cosiddetto finanziamento, cioè ah ecco, perché infatti volevo andare a parare lì io tra un po', invece sì, mi dice che è escluso. Non è detto però sia il caso dell'ascoltatore, cioè se il pagamento a rate è fatto con un accordo col negoziante per il quale si paga prima un acconto e poi un saldo o tre pagamenti distinti, tutti con carta di credito o di debito, quindi banco, quanto bonifico, credo che vada tutto bene. Però dalla fattura finale risulterà che al rivenditore appunto sono stati corrisposti 10.000 euro, per cui la spesa complessiva è quella, poi sulle modalità, però è escluso il finanziamento, per cui se compriamo lavatrice, frigorifero nuovo e magari al rivenditore risulta versato tutto in un'unica soluzione, però noi paghiamo a rate perché praticamente abbiamo preso il finanziamento, non possiamo prendere l'agevolazione fiscale. Questo ha detto l'Agenzia delle Entrate. Là dobbiamo assolutamente inchinarci a quanto indica l'Agenzia delle Entrate. Chi sentiamo? Elsa, che ci chiama da Bergamo. Buongiorno, benvenuta. Ha superato la nostra barriera rosa. Buongiorno, ha buttato di là la gamba, come si dice. Buongiorno, Elsa. Ha scavalcato la staccionata. Elsa, sì, ci scusi. Allora, sì, dunque io avendo ristrutturato il bagno l'anno scorso, ho pagato bonifico parlante, cioè va bene, è andato tutto perfetto. E allora quest'anno dicevo, volevo cambiare la lavatrice e ho visto che questi incentivi appunto erano stati prolungati e quindi per l'acquisto di questa lavatrice rientro quindi ancora, previsto che i lavori, dunque io il bonifico l'ho fatto giugno dell'anno scorso. È andato tutto. Prima o dopo il 6, Elsa? Dunque no, io ho fatto esattamente un bonifico il 10 e uno il 20 dalle pari idraulico, erano separati fra muratori e quindi il 10 e il 20 ho fatto il bonifico parlante, dunque adesso volevo fare la lavatrice perché state si potevano, c'era ancora quel incentivo del 50% di detrazione. Elsa, lo sa che mi sa che lei è un po' fortunella, che forse ce la fa? Perfetto. Avvocato Spaziani Testa, sbaglio? L'abbiamo perso, eccolo. Sì. No, le tutto. Che poveretto, gli dobbiamo far fare con la calcolatrice in testa tutti i conteggi. No, se è tutto ammissibile perché è stato fatto nel 2013 e qui il presupposto. E dopo il 6 giugno. Partiti dal 6 giugno 2012. Mm-hmm. Importante dire che il frigorifero, ma insomma credo sia quasi scontato. Quindi, la classe energetica qui è, in questo caso è la lavatrice, che sia non inferiore alla A+, ma insomma l'acquisto di questi elettrodomestici nuovi solitamente, infatti questa specificazione va fatta benissimo. Quindi Elsa, ce la fa, hai visto? Brava. Pensava Elsa, aveva dato tutto per perso, invece riusciamo a farle risparmiare sulla lavatrice. Vediamo come se la cava invece Damiano che ci chiama da Verona. Buongiorno Damiano, benvenuto. Buongiorno, io ho due domande, spero di essere abbastanza chiaro perché mi sono messo in ascolto purtroppo a metà trasmissione. Ma guardi Damiano, eventualmente le rispondiamo dopo in privato, qua lei lo sa che la nostra porta non si chiude mai, il nostro sportello. Benissimo. Aiuto, eccoci, ci dica. Radio 24 mi piace proprio per questo. Ecco, allora la domanda è, tutti i lavori che possono beneficiare del bonus ristrutturazione 50% possono concorrere per il bonus mobili? Ad esempio, io ho installato un condizionatore in pompa di calore, l'Agenzia delle Entrate, per quello che ne so, non necessita di una dichiarazione del tecnico per il risparmio energetico se acquisto un pompa di calore, perché danno come presupposto, l'ho letto di recente, che facendo anche caldo comunque mi fa risparmiare nella mezza stagione, quindi lo posso, se dico, se ho letto bene, portarla in detrazione al 50% con il mio bonifico senza tante dichiarazioni. La prima domanda è questa. Quindi il condizionatore, se tutti i lavori che possono fruire del 50% concorrono per il bonus dei mobili. Su questo glielo dico già io che non è così, c'è un elenco abbastanza più o meno preciso, poi magari Spaziani Testa è più dettagliato. Senso che tutti i lavori che usufruiscono del 50% in quanto ristrutturazione eccetera, ma tutti questi sono il presupposto per la per i bonus mobili. Però in realtà la circolare 11/E di quest'anno dell'Agenzia delle Entrate qualche paletto l'ha fissato, avvocato Spaziani Testa. I paletti sono fissati con riferimento a qualche eccezione, adesso non so a quale si riferisca, ma le leggo testualmente quello che dice la circolare perché ce l'ho sotto gli occhi. I lavori finalizzati a risparmio energetico, per esempio la sostituzione di serramenti e infissi o l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, che fanno accedere all'agevolazione il 65%, per chi fa interventi di questo tipo non ho capito bene se posso ottenere la detrazione per mobili. In quanto tali no, lo dicevamo prima, quelli infatti di risparmio energetico in quanto tali no, se però sono considerabili interventi per i quali si può usufruire della detrazione invece per, chiamiamole sempre male, ristrutturazioni, perché sì, così sono conosciute, in quel caso sì, e questo mi sembrava fosse il caso anche dell'ascoltatore. Dell'ascoltatore. Sa che non mi ricordo la seconda parte della domanda che ci ha fatto il nostro amico? Il condizionatore però c'è ancora, abbiamo risposto. Eccolo. Sì. Sì, ci sono. Ecco, infatti mi ricollego proprio a questa cosa. La seconda non l'aveva fatta. Non l'aveva fatta, no. Sì, non l'abbiamo. Ecco perché non me la ricordo. Sì, sì. Eccomi, ci sono? Sì. Sì, ecco, la seconda si ricollega a questa perché tanti commercialisti non ce l'hanno chiaro, quindi posso fruire del bonus mobili anche per tutti quei lavori contemplati che non necessitano di una pratica comunale. Ad esempio, se io cambio tutti i sanitari del bagno perché metto water nuovo, bidet nuovo e lavandivo nuovo, non devo fare una scia, non devo fare una DIA, non devo fare nessuna dichiarazione. No, lì adesso abbiamo avuto tutto un intervento di semplificazioni in questo senso, avvocato Spaziani Testa, che potrebbero rientrare anche nel caso dell'ascoltatore. Sì, però quello che rileva non è autorizzazioni sì o autorizzazioni no, è importante che siano sempre interventi che sono all'interno della casistica per le ristrutturazioni edilizie, solitamente, quindi a prescindere dal fatto che ci siano meno autorizzazioni, certo, quello non conta. Allora, avvocato Spaziani Testa, il nostro tempo a disposizione è terminato, purtroppo ci dia solo due indicazioni su dove possiamo andare a cercare tutte le informazioni che ci servono appunto per poter ristrutturare in serenità e magari comprare l'arredamento nuovo con la certezza che l'incentivo fiscale non lo perdiamo. Diamone una combinata, è quella ufficiale pubblica dell'Agenzia delle Entrate e delle relative guide che sono sul sito, e siccome qualche dubbio rimarrà io mi permetto di fare riferimento alle nostre associazioni territoriali che sono in Italia, sul sito della Confedilizia ci sono. Ha fatto benissimo. Grazie per la sua disponibilità. Grazie, avvocato. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Sì? Che cosa c'è da fare adesso alle 11:46? Allora, possiamo fare due cose. O salutare il prossimo ospite, che dai, è già lì. Dai, salutiamolo perché ci è simpatico, lo conosciamo tutte e due. Esattamente, e ci piace anche molto. Professor Piero Barbanti, buongiorno. Buongiorno, grazie del gradimento. Cuore e denari. Passerò tutta l'estate qui, compresi lunedì. Quelli che odio di più, non lo so, mai così. Odio i lunedì. Lunedì è passato, il primo giorno della settimana, sempre un giorno un po' difficile, diciamolo, non ha mai goduto di una grande popolarità, ma ora anche la scienza ci mette lo zampino. Infatti, secondo una ricerca, l'ora X del mal di testa scatterebbe alle 10 del lunedì mattino. Allora, com'è andata voi? Ieri, tra l'altro, Deborah, abbiamo avuto un lunedì abbastanza bollente. Sì, però la borsa è andata bene, quindi la testa si è un po' rasserenata. Allora, se soffrite di mal di testa, e non solo al lunedì, magari nel fine settimana, perché quello è anche un momento molto delicato, chiamateci 800 24 00 24, in linea con noi, come avete già avuto modo di sentire, c'è il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma, che risalutiamo. Professore, buongiorno. Buongiorno di nuovo, saluti a tutti. Professore, questa ricerca che ho citato del lunedì delle 10 del mattino è una ricerca 2.0, perché è stata fatta prendendo in esame ben 21.741 tweet che parlavano di mal di testa. Insomma, tante teste, però noi sappiamo, anche dopo aver fatto tante trasmissioni con lei, che ci sono tanti mal di testa. Tantissime persone che ne soffrono, lo dice l'OMS, il mal di testa è la prima malattia del mondo per diffusione, più della carie dei denti. Se posso utilizzare un brand vostro, vorrei anticipare tutti i convocati, e cioè i convocati dovrebbero essere quelli che hanno un orologio in testa, cioè quelli a cui il mal di testa aggiunge ad orari fissi, quelli che hanno un barometro in testa, cioè quelli in cui il mal di testa compare con una certa così correlazione climatica, e quelli che hanno la nuvola di Fantozzi, cioè quando vanno in vacanza hanno il loro mal di testa. E poi vorrei anche sollecitare, convocare tutte le persone che sono in ascolto e che credono che a 30 anni possa esistere la cervicale, che credono che il raffreddore, la sinusite dia mal di testa periodici da quando siamo piccoli. Ecco, è un po' una provocazione, però convochiamoli tutti, poi manderemo a casa qualcuno, quelli sì, che invece non ne hanno bisogno. Allora convochiamoli, li invitiamo a chiamare il nostro numero verde 800 24 00 24, perché Deborah, noi diciamo genericamente spesso oggi ho mal di testa, mm-hmm, però non è che sappiamo esattamente tipo di mal di testa abbiamo. Io infatti non ce l'ho mai, tu lo sai, perché non è un mio problema ricorrente. Quando ho qualche fastidio mi si piazza qui sopra alle sopracciglia praticamente, ma non è un vero mal di testa, è un malessere, però una nuvolina. E invece vedo che quelli che soffrono di mal di testa vero hanno proprio delle giornate molto difficili, lo si vede anche dallo sguardo, il mal di testa assolutamente autentico. È importante, si riconosce ad occhio la persona che ha mal di testa, ma noi oggi vogliamo aiutare le persone che soffrono di mal di testa a riconoscere la cefalea di cui soffrono, e ci sono delle indicazioni, perché è importante, come abbiamo detto, capire quando il mal di testa si manifesta, ma anche come e dove va a colpire. Poi soprattutto non cadere in delle luoghi comuni che fanno diagnosi secondo dei detti popolari, che alla fine si sono visti assolutamente ingiustificati. Andiamo allora a sentire la nostra scheda, che sicuramente ci dà una mano. Il mal di testa ha cadenze regolari oppure ti sorprende come la visita di un ospite sgradito? Il dolore compare periodicamente nello stesso punto, oppure ultimamente ha cambiato sede o è diventato diffuso? La notte ti porta a consiglio o cefalea? E il fine settimana? Se hai mal di testa, provi con un caffè o con un analgesico. Riesci a spegnere il dolore oppure ti rassegni e aspetti che passi? Pensi che sia la cervicale la colpevole? Credi sia la sinusite, ma non ti culla il naso? Allora, vuoi degli ascoltatori o siamo? Dori, perché tu ci hai detto già che mal di testa non ne soffri, ma è quel piccolo leggero malessere, quella pesantezza che tanto. Non spesso, devo dire la verità, che sono una persona molto fortunata. No, mi piaceva quello che scriveva Christian al 349-238-6666, che intanto esordisce con buongiorno Nicoletta, Deborah, siete spettacolari. Vi scrivo in merito al mio mal di testa ricorrente, anche 2-3 volte a settimana, derivato dalla mia allergia alla polvere d'acari. Naso e orecchie non compensano la pressione atmosferica e ciò mi genera mal di testa. Cosa posso fare? E lo chiediamo naturalmente al professor Barbanti. Gli acari ci mettono lo zampino? Ma ci mettono le zampette forse gli acari, ma non direi che causano il mal di testa. Rischiamo di confondere l'elemento scatenante con l'elemento causale. Se noi abbiamo, possiamo usare un vecchio termine, un nevrastenico, possiamo pensare che la colpa della nevrastenia siano i tacchi di quello di sopra, ma no, quello è solo il casus belli. Quindi direi a Christian che se è sensibile agli sternuti scatenando questi mal di testa, forse ha un altro disturbo, una cefalea primaria, cioè un'emicrania. E vorrei ricordare a Christian uno per tutti: gli italiani sono i massimi esperti al mondo, è una delle poche cose in cui facciamo la parte degli americani, scientificamente parlando. Quindi qualunque buon centro cefalei in Italia è un eccellente centro cefalei internazionale. Allora, noi andiamo invece a sentire che cosa ci dice Maurizio, che ci chiama dalla provincia di Milano, e poi naturalmente continueremo a leggere i vostri messaggi, che rimangono numerosi, perché come ha detto il professor Barbanti, il mal di testa è un problema molto diffuso, che tra l'altro colpisce più le donne degli uomini, professore. Ma noi in linea abbiamo un uomo, abbiamo Maurizio, buongiorno. Buongiorno a voi, belle ragazze. Bravo, già questo già ci piace. Lei è il nostro preferito di oggi, Maurizio, bravo. Complimenti, grazie. Volevo esporre un problema che mi affila da un po' di tempo. Io ho avuto la brillante idea di riverniciare la mia casa. Perché voleva gli incentivi fiscali, naturalmente. Con dei prodotti a base di sostanze naturali, no? Perché è così, per una questione di ecologia, eccetera. Solo che da quel momento mi sono rovinato la vita, nel senso che io quando sto in casa per un po' di tempo, dopo un po' mi viene mal di testa, e questo preferibilmente nella stagione primavera e estate, perché l'inverno è abbastanza sopportabile, lo sento meno. Allora, Allora, Maurizio non ci ha detto magari anche il colore che può dare fastidio, no? Ha visto dei colori viola e gialla insieme. No, a parte gli scherzi. Professor Barbanti, lei ha registrato tutto, perché oggi vorremmo parlare anche di mal di testa che sono scatenati dall'ambiente in cui viviamo. A volte non solamente una musica a farci venire mal di testa, assordante, ma anche un profumo. Adesso abbiamo il GR, voi continuate a chiamarci, il professor Barbanti è in linea con noi e quindi è una garanzia. Rilassatevi, andiamo a sentire il nostro GR. Cuore e denari. La televisione che osservo a casa serve solo per il mio mal di testa. Tornare da Milano all'ora di punta serve solo per il mio mal di testa. Ultima parte della trasmissione di Cuore Denari, vogliamo parlare di mal di testa, lo facciamo insieme al professor Piero Barbanti, ma oltre ad aiutarvi a capire di che tipo di mal di testa soffrite, noi oggi vogliamo anche darvi i rimedi per combattere il mal di testa, anche senza l'uso dei farmaci. Professor Barbanti, ce la facciamo? Abbiamo parlato proprio nella settimana scorsa di agopuntura, che risulta efficace, vero, per il mal di testa, ma ci sono tanti altri modi, vie per calmare o allontanare le crisi di cefalea? Senza dubbio, intanto l'agopuntura fatta bene è uno strumento veramente molto importante, non deve essere visto come l'ultima spiaggia, vediamolo magari anche come un primo trattamento e se non funziona ricordiamo che esistono anche degli altri farmaci. Diamo un piccolo, brevissimo elenco delle cose da evitare, sostanzialmente sì. Sono tre. Il digiuno, che è la prima cosa, il primo cibo da eliminare è quello di non utilizzarlo, quindi evitiamo di non mangiare. E un'attenzione alla cucina cinese, perché il glutammato monosodico qualche scherzo lo fa, e poi attenzione all'alcol, ma in particolare io sono sempre un po' insistente sul tema dell'aperitivo, cioè dell'alcol preso stomaco vuoto, magari mangiando poco, perché in quel caso nell'emicranico si assorbe facilmente, prima che in altri, e scatena il mal di testa. Sì invece ai pasti frazionati, sì a due caffè al giorno, e se vogliamo curare il mal di testa mangiando, ricordiamoci che spinaci, sardine, broccoli e soprattutto il fegato sono importanti per il coenzima Q10, che è una strategia sicuramente riconosciuta per la cura dell'emicrania, e i vegetali a foglia verde perché contengono la riboflavina, altra vitamina importantissima per prevenire l'emicrania, quindi non solo farmaci, anche alimenti. Ed è bello passare dalla lista dei cibi vietati, che non si usa più in realtà, alla lista dei cibi caldamente consigliati. Allora, intanto, Laura su Facebook scrive: soffrivo di terribili mal di testa, soprattutto durante il weekend, da quando mi sono separata per mia scelta, non so più cosa sia il mal di testa. E eviterei di far commentare al professor Barbanti, al quale andiamo invece ad una questione di carattere un po' più, come dire, pertinente alla sua professionalità. La sensibilità particolare, professor Barbanti, a determinati odori, da che cosa è determinata e perché fa scattare il mal di testa? Prima parlava dei colori naturali il nostro ascoltatore, ma ci possono essere anche, che ne so, profumi, dato che abbiamo fatto la ristrutturazione della casa, esatto, oppure il profumo del vicino di banco, non lo so, o anche ci faccio caso quando entro in palestra usano dei detergenti molto forti per pulire, sono un po' sgradevoli, non mi provocano il mal di testa, ma magari a qualcuno sì. Quindi possiamo dire, professor Barbanti, se gli odori vi danno fastidio, si chiama osmofobia, e provocano in voi mal di testa, raccontatecelo subito, perché anche questo è un elemento che aiuta a fare diagnosi? Certamente, l'osmofobia è un elemento che quando presente distingue nettamente l'emicranico da chi ha altre forme di mal di testa. Non so se a Cuore Denari vi siate letto un articolo scientifico, sembrerebbe di sì, perché avete detto esattamente ciò che è stato pubblicato inizio anno da alcuni ricercatori. Vedi che ci è caduto anche lui, vedi? Vedi, il professor Barbanti. La classe non è acqua, la vostra classe, ma in realtà cosa si sono accorti? Che la vera criptonite dell'emicranico non è l'alcol, è l'olfatto, sono gli odori, anzi in particolare i profumi, e hanno dimostrato che negli emicranici dopo soli 15 minuti, badate, l'alcol impiega molto di più, dall'esposizione a stimolazioni olfattive, nel 70% dei casi scatena un attacco che può durare da 4 ore a 3 giorni. E quali sono le stimolazioni olfattive? 76% dei casi i profumi. Quindi non solo non regaliamoli al fidanzato o alla fidanzata emicranici, ma mettiamoceli poco noi se vogliamo che ci dia un bacio. Due, le pitture o le vernici, sì. 42% dei casi, carburanti 28% e diceva Deborah, i detergenti, in particolare la candeggina, 27% dei casi. Questo perché? Perché sfortunatamente le vie olfattive convergono sulle vie trigeminali, che nell'emicranico sono sempre molto inquiete, e così uno stimolo olfattivo, anche se profumato, può smuovere la pace apparente che regna nel nervo trigemino dell'emicranico. Pace apparente. Ci sono tanti messaggi, sì, arrivano al 349-238-6666, vogliamo leggerli perché sono un po' delle richieste di aiuto dei nostri ascoltatori. Esatto. C'è chi soffre, professor Barbanti, il cambio di stagione in maniera molto importante, molto forte, oppure magari il cambio repentino, sì, meteorologico durante l'escursione termica. In questo periodo ce ne sono tante, la mattina usciamo di casa e magari sono 12 gradi, arriviamo a 28 nel giro di 2 ore e qua la testa ne risente. Come ci proteggiamo? Beh, intanto lì è difficile proteggerci. Io consiglio sempre di non sommare le infrazioni, un po' come nella patente a punti, se no te la levano. Cioè, quando c'è il cambio di stagione, cerchiamo di moderare altre cose che noi possiamo moderare, per esempio alcuni eccessi alcolici, alcuni digiuni, alcuni stress. Ricordiamo che il primo elemento scatenante è lo stress. Laura, separandosi, uno stress l'ha tolto, ecco perché forse credo almeno, il mal di testa le è passato o le si è attenuato. Il secondo sono gli ormoni femminili, quelli non li modifichiamo. Terzo, il digiuno. Quarto elemento scatenante è il cambio meteo. Su questo facciamo poco, ma nei cambi di stagione evitiamo strapazzi di altro genere. È chiaro che se in giornate come questa, un venerdì sera, faccio le 3 del mattino, bevo e la mattina dopo marzo alle 11, insomma, ho preso tutti i biglietti alla lotteria del mal di testa. Senta, professor Barbanti, abbiamo aperto citando quella ricerca che ha individuato nel giorno del lunedì alle 10 l'orario X in cui più sovente scoppia il mal di testa, ma noi sappiamo che anche il weekend è molto a rischio. Si parla infatti di cefalea da weekend, colpisce le persone particolarmente stressate, perché quando, lo sappiamo, stacchiamo la spina, tutti i nodi vengono al pettine e il mal di testa arriva puntuale, per poi magari abbandonarci proprio a lunedì mattina quando dobbiamo affrontare la giornata. Ma certo che ormai il weekend è andato. Sì, diciamo che lo studio dimostra, tra l'altro è uno studio che ha qualche aspetto opinabile, perché sostanzialmente il mal di testa scoppia nel soggetto con cefalea di tipo tensivo il lunedì, ma proprio il comparire nell'apice dello sforzo o nell'apice del riposo discrimina i soggetti emicranici, in cui quando levano l'acceleratore si spegne il motore, quindi sì, parte l'attacco. Questo perché non hanno più l'effetto analgesizzante dell'adrenalina che li caratterizza. Dalla situazione invece del soggetto con cefalea tensiva, che giunge a un tale rumore di fondo per via dell'accensione di tutti i motori, della tensione nervosa e della programmazione della settimana, per cui ti manda un tweet, così hanno fatto nello studio, perché ha una cappa in testa, che è ben diverso da mi scoppia la testa, ciò che dice abitualmente il paziente emicranico. Quindi direi a chi ci ascolta, se il mal testa compare nell'acme della stress, difficile che sia un'emicrania. L'emicrania ti prende quando ti rilassi. Allora, e abbiamo molte amiche che ci stanno ascoltando e sottolineano ancora, vedi, che è più un problema femminile che maschile. Infatti Giulia, toccava proprio l'ultima indicazione data dal professor Barbanti: l'emicrania avviene quando ci si rilassa, probabilmente quando ci si mette a dormire può succedere che scoppi. Giulia da Milano, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Io soffro di emicrania da tutta la vita, praticamente. Mi hanno sempre detto che è una cosa ereditaria, infatti anche un po' tutta la mia famiglia, e soffro di quel tipo di emicrania, diciamo, legato agli ormoni femminili. Sì. Per cui è una cosa che mi hanno, e anche questa è una domanda che farei al professore, una cosa che mi hanno detto è, e ho verificato che effettivamente potrebbe essere, è che effettivamente da quando prendo la pillola, diciamo, per controllare, insomma, i periodi ormonali, riesco a circoscrivere gli attacchi a quei giorni proprio in cui c'è il ciclo, sì, mentre non prendendola il mal di testa mi poteva colpire in qualunque giorno del mese. una cosa, quindi chiederei se effettivamente è così, se è vero che è per questo motivo che si circoscrivono i giorni. E poi l'altra cosa è qualche mese, quindi io ne soffro da anni, ma da qualche mese il mio mal di testa mi arriva sempre di notte, la cosa peggiore, perché con degli analgesici potenti, quando io sento che sta arrivando riesco a bloccarlo, ma quando viene di notte ci si sveglia dal dolore e lì insomma l'analgesico ci mette anche un paio d'ore a volte a fare effetto. Grazie Giulia, una bellissima domanda, professor Barbanti, quella di Giulia. Sì, Giulia dà modo di sfatare un luogo comune. Non è vero che la pillola peggiora il mal di testa. Nella grande maggioranza dei casi la pillola non fa nulla o addirittura migliora, è il caso di Giulia, fatto salvo che abbia l'emicrania con aura che la pillola non deve vedere nemmeno in cartolina, ma non è il suo caso. In questo caso decide di ammucchiare tutte le crisi solo nel periodo mestruale. L'insorgenza notturna è da manuale, ora il meccanismo è molto complesso, ma proviamo a spiegarlo così. In un cervello come quello emicranico, avido di serotonina, con i tombini un pochino ostruiti come la città di Roma ad agosto, quando arriva la pioggia e la pioggia di serotonina arriva tra la notte e il risveglio, paradossalmente lui che ha tanto bisogno di acqua si strozza, si allaga pur avendone tanto bisogno. Questo è il motivo per cui l'attacco compare di notte, mentre invece chiunque di noi abbia bambini emicranici sa che la notte, e questo è strano, al bambino emicranico fa passare l'attacco. A Giulia non verrebbe in mente di rimanere a letto invece quando compare il dolore. Un consiglio per Giulia e per le persone che come Giulia si ritrovano con questo mal di testa che puntualmente viene a trovare, soprattutto in modo particolare a noi donne vicino o durante il ciclo, ci sono dei cibi, c'è l'assunzione di alcuni integratori che è stata per anni consigliata, valutata anche da ricerche. Professor Barbanti, servono? Sì, sicuramente intanto il magnesio che è presente in varie forme, il pidolato di magnesio è uno dei sali più diffusi usato nella seconda metà del ciclo, sicuramente ha una sua efficacia, questo è il rimedio naturale più provato. Alcuni utilizzano anche l'agnocasto che ha anche una funzione nella sindrome premestruale. E ricordiamoci poi che se il mal di testa è particolarmente severo ci sono anche degli approcci farmacologici brevi, cioè delle mini profilassi, non fare la cura per 4-6 mesi tutti i giorni come facciamo nelle profilassi vere, solamente 7-8-10 giorni prima del flusso mestruale una piccola cura, insomma come un ripasso prima dell'interrogazione, ma agnocasto e magnesio possono essere utili. Quindi si tende comunque a prevenire gli attacchi con una terapia preventiva, mi riferisco non solamente al magnesio, ma quando lei parlava di terapia farmacologica, no? Allora, nel caso dell'emicrania mestruale sì, perché è quella tipicamente più pesante, sono attacchi molto difficili da mandare via, ma in generale a chi ci ascolta e magari sia uomo e abbia mal di testa di tipo emicranico più di 4-5 volte al mese, ci sono 27 cure farmacologiche non codificate dalle linee guida ministeriali che vale la pena seguire. È difficile oggi vivere male col mal di testa. Ecco, questo è un messaggio rassicurante, ci sono dei rimedi naturali, ci sono delle terapie farmacologiche, insomma non diamo vinta la partita al nostro mal di testa che è davvero una compagnia di vita molto faticosa. Veglia ci chiama da Roma e poi Michela dalla provincia di poi Venezia. Poi volevo chiedere al professor Barbanti quando serve il caffè per placarlo un attimo, in quali casi è indicato farsi una tazzina di caffè per, come dire, rallentare un po' questa morsa in testa? Beh, direi immediatamente ai primi sintomi di mal di testa, se uno prende un caffè doppio, sono circa 150 milligrammi di caffeina, potrebbe passare, se no non insistere. E il caffè può essere zuccherato, evitiamolo, anzi mettete lo zucchero perché è una fase di alta richiesta metabolica. Un caffè senza il limone, come veniva detto un tempo, non ha ragione di esistere il limone. Ah no, il limone non si mette nel caffè per il mal di testa. Io l'ho sempre provato e l'ho trovato sempre efficace, mi fa cadere un mito. Sì, ma anche il gusto. Questo perché è la vecchia cosa per la quale per stare bene bisognava passare attraverso un pochino di sofferenza. Va bene, adesso tolgo il limone, voilà. Ecco. Veglia, buongiorno, bene. Da Roma. Buongiorno, sì, buongiorno. Io ho chiamato perché mio figlio, che ha 30 anni, soffre da almeno una quindicina d'anni di emicrania con aura, che è una forma di mal di testa molto particolare e che dà dei disturbi stranissimi, cioè disturbi alla vista, fa addormentare le mani, cioè crea una situazione proprio di totale incapacità di compiere qualsiasi attività. Sì. E intanto la diagnosi è stata molto difficile all'epoca, perché tutti pensavamo fosse un problema della vista, no? Che è cominciato con questo problema agli occhi, appannamento della vista, restringimento del campo visivo. Mm-hmm. Comunque, dopo vari accertamenti, la diagnosi è stata emicrania con aura. Ed è un disturbo pesante, nel senso sì. che dipende dalla durata, ma può durare anche parecchio, e in quel momento non si può fare, non puoi guidare, se stai lavorando non puoi lavorare, eccetera. Siccome ci è stato sempre detto che non ci sono cure, non ci sono farmaci. Vediamo se il professor Barbanti Veglia ha qualche novità per lei e per le persone che, come il figlio di Veglia, soffrono di emicrania con aura, che mi sembra, professor Barbanti Veglia, abbia descritto in modo molto preciso. Sì, direi a Veglia due cose. La prima, se l'emicrania con aura viene meno di una volta al mese, la cura preventiva non è corretta. Secondo, l'aura non vuol dire ictus. In quel momento il cervello sta ricevendo normalmente sangue, non pensi il suo figlio che sta rischiando qualcosa. Terzo punto, prima di giungere alle terapie farmacologiche, ci sono dei derivati come la vitamina B2 ad alto dosaggio, la riboflavina o il ginkgolide B, che è un estratto del ginkgo biloba, che in maniera non farmacologica possono dare una mano. Ancora un centro cefalee moderno, italiano ovviamente, e di buona qualità, potrà dare un consiglio. Ma ricordiamo che chi soffre di emicrania con aura ha 5 volte il rischio di soffrire di attacchi di panico, e spesso si fissa un po' sulla paura che venga l'aura. Di questo teniamolo conto. L'ultima testimonianza volante la prendiamo da Michela della provincia di Venezia, che promette di essere telegrafica. Michela, perché stiamo chiudendo. Ce ne dispiace, ma purtroppo il tempo è tirannissimo. Ci dica. No, tranquilla. Niente, io non sono una che soffre molto di mal di testa, però quando prendo di quelle incavolate con il figlio, col marito, prende un mal di testa. Ecco, le prende proprio mi lì. Fuma la testa, mi fuma il cervello. Mi piace un occhio che iniziano a pulsare gli occhi e si annebbia come un po'. Si trasfigura Michela addirittura con l'arrabbiatura con i figli. Professor Barbanti, scappare oppure se deve resistere, vuole resistere, che fa? Beh, direi intanto che lei ha la fortuna che la sua soglia del dolore è abbastanza alta, perché ci vuole una grossa arrabbiatura per averla. È una maniera di difendersi dal cervello, è una maniera per dire basta, mi hai levato tutte le energie per la lite, non ne ho più per tutelarmi, e quindi incomincio a dolermene, e quindi non se ne preoccupi, non sembra nulla di tragico. Grazie professor Barbanti per essere stato con noi, buonissima giornata. E noi torniamo domani, quindi non mancate a Cuore Denari a partire dalle 11. A tutti buona giornata.